Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Beh, oggi vi racconto la storia di un personaggio veramente particolare. Il suo nome lo conoscono tutti, la sua faccia la conoscono molto meno persone, anche perché insomma non è certo un frequentatore di salotti televisivi, non è uno che ama mettersi in mostra, è una persona particolare che in qualche modo ha costruito la sua carriera, la sua immagine, il suo impero grazie al, diciamo, al mondo dell'occulto, lupi mannari, morti viventi, vampiri, insomma il suo talento ha partorito incubi di tutti i tipi. Il suo modo di scrivere è sempre stato accostato, almeno nella leggenda, poi scopriremo se è vero, a un equilibrio psicologico particolare o addirittura precario. È la storia di un uomo che per lungo tempo ha vissuto nascosto dietro al suo personaggio più famoso, che è Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Nella mia vita ho visto di tutto: vampiri, mostri, alieni. Sono perfino stato l'ultimo uomo sulla Terra. Ma tutto questo non conta. Conta che ancora oggi sono scettico, che mi innamoro ogni volta che faccio l'amore con una donna diversa. Sì. Ho un assistente insopportabile con baffi e ciglia finte, un armadio pieno di camicie rosse. Ma giù da ballerino. Qui c'è un problema. Sì. Un enorme problema. Sì, un enorme problema. Un gigantesco problema. Ehi, piantala! Le zanzare. Ispettore Block. Ciao, vecchio. Sono Dylan. Grucio, sei licenziato. Ma noi oggi non parleremo di lui, di Dylan Dog, dell'indagatore dell'incubo. Parleremo dell'uomo che ha creato Dylan Dog, un uomo attorno al quale c'è sempre stato un grande alone di mistero. Però siccome in questi casi, quando la leggenda si sovrappone alla fantasia, si rischia di prendere delle cantonate, si rischia di esagerare, io ho bisogno di qualcuno che lo conosce molto bene, e questa volta ce lo siamo proprio portati in studio. Roberto Recchioni, un'altra persona che conta molto nel mondo dei fumetti, lo chiamano la rockstar del fumetto, ed è uno dei curatori di Dylan Dog, ma soprattutto è una persona che Sclavi lo conosce molto bene. Mi sbaglio? Buongiorno intanto. Buongiorno, sì, Tiziano lo conosco bene, è stata una bella sorpresa, perché avevo pubblicato una storia di Dylan Dog che si chiamava Mother Morbi. Fino a quel momento non l'avevo mai conosciuto, neanche mai sentito il telefono, e mi hanno detto: Tiziano ti vuole parlare. Quindi mi è stato passato, per me era questa sorta di Salinger, certo, nascosto, e è stato molto emozionante. Poi da lì è nata un'amicizia, adesso ogni tanto frequento casa sua. E vivi, si può dire, no? Vivi in una sua casa. Sì, sì, sì, vivo nelle pantofole di Tiziano Sclavi. Nelle pantofole, e beh, allora sei la persona giusta, perché lui è veramente un personaggio particolarissimo nel panorama italiano. È un giornalista, scrittore, sposato con Cristina, vive in una villa nella campagna vicino a Milano, una villa della quale bisogna parlare adesso con Roberto. È vero che lui vive in una condizione che sfiora l'isolamento? L'isolamento è sicuro. Tiziano vive in una casa nel bosco, citando un titolo di un film horror, eh? Una casa molto isolata in mezzo a un bosco, sì, molto verde e molto spettrale, dove condivide appunto la vita con i suoi infiniti cani e con Cristina. Non esce quasi mai. Immagini, non mi dà del tipo che guarda la televisione. No, ne guarda tantissimo. Ah, vedi? Appassionatissimo di serie televisive, appassionatissimo di cinema. Non è un generalista, però, secondo me. Non sa neanche chi è. Belen non sa neanche chi è. Credo che non sappia chi è Renzi. E però ha una biblioteca immensa. Sì, sì, sì, anche perché la qualità principale di Tiziano era quella di saper svariare dalla letteratura, dalla cultura altissima a quella bassissima. Quindi accanto al Terminator c'è una libreria infinita di classici russi o dei suoi romanzi di John Grisham, che è il suo autore preferito. E poi dischi, vinile, CD. Che musica piace a Tiziano Sclavi? Tutta, nel senso, ha una... Anche lì, dall'alto al basso. Sì, Vivaldi e il punk rock degli anni Ottanta. Vabbè, allora dall'alto all'alto. All'alto all'alto. Comunque, partiamo dall'inizio con una sua dichiarazione particolare. Tre cose che mi fanno orrore? Mi spiace, ne ho una sola. Tutto. Come lo capisco. Tiziano Sclavi nasce a Broni, 3 aprile del 1953. Broni è un paese piccolino nell'Oltrepò Pavese. Negli anni 50, insomma, è un evento anche l'arrivo di una macchina. Sono posti che Paolo Conte ci ha raccontato, e posti molto suggestivi. Lì c'è la nebbia, c'è questa atmosfera ovattata da pianura padana, strade silenziose. Lui ha una madre insegnante, il padre è segretario comunale, e quindi si cambia residenza spesso, ma rimanendo sempre nella provincia di Pavia. E poi si va a Stradella, si va a Canneto, si va a Certosa di Pavia. Lui è un bambino particolare, per esempio adora leggere Edgar Allan Poe, quindi già si instrada verso un luogo preciso. Lui ha 6-7 anni quando si immerge nelle opere di Poe, e si dice che l'abbia letto tutto proprio a quell'età lì, ed è molto giovane anche quando inizia a scrivere. Vince un concorso di scrittura con dei racconti che si chiamano Storie storte. A me fin da bambino sono venute delle idee, quindi così sono divenuto uno scrittore e un fumettaro. Insomma, è proprio perché gli vengono da chissà dove delle idee che un ragazzo, invece di andare a giocare, si mette a scrivere, o a dipingere, o a comporre musica. Here I go again, up and down alone. All my friends went home years ago. All my toys are broken, and so am I inside, Mom. The carnival has closed years ago. Liceo classico a Pavia e altri racconti pubblicati. C'è un racconto che colpisce molto il suo professore, che è il primo a credere nel suo talento e lo porta a collaborare con il Messaggero dei ragazzi di Padova. Siamo nei primi anni 70, Tiziano si firma Francesco Argento, che è un omaggio a due personaggi che lui ama molto, Francesco Guccini e Dario Argento. Poi arriva l'università, lettere moderne, però lui sta già lavorando in modo serio, in modo retribuito, sostiene pochi esami e poi abbandona, si trasferisce a Milano, dove lo aspetta una collaborazione con il settimanale per giovani del Corriere della Sera, che adesso si chiama il Corriere dei Ragazzi, dalle ceneri del Corriere dei Piccoli, ed è l'inizio del suo rapporto con il mondo dei fumetti, che lo porterà negli anni fino all'apice, fino a Dylan Dog. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, dell'indagatore dell'incubo, e lo stiamo facendo assieme a Roberto Recchioni, che Sclavi lo conosce bene, e quindi abbiamo bisogno di lui per delucidazioni, per sapere fino a dove la leggenda combacia e collima con la realtà. Intanto l'abbiamo lasciato, che non ha ancora 20 anni e scrive per il Corriere dei Ragazzi. Ed è qui che avviene il suo primo incontro con i fumetti. Il direttore Alfredo Barberis gli affida una serie che si chiama Altai e Johnson. I disegni sono di Giorgio Cavazzano, è una specie di giallo rosa, un poliziesco comico con due investigatori improbabili. Insomma, il fumetto fa emergere la vena surreale, quella divertente di Tiziano Sclavi, segna il suo esordio in questo mondo così particolare, e in quegli anni scrive e pubblica racconti, tra cui nel 74 una raccolta dal titolo I misteri di Mister. Arriva anche il primo romanzo che si chiama Film, edito dal Formichiere, e con questo romanzo vincerà il premio Scanno, ed è un mix tra horror e splatter e grottesco. Lui si sta affermando per il suo talento, però nella sua vita sono già presenti dei tormenti, delle difficoltà che condizioneranno gran parte della sua esistenza. Lo racconta lui stesso nel film documentario Nessuno siamo perfetti di Giancarlo Soldi. Ho dei ricordi vaghi di tante cose. La maggior parte delle cose che ho scritto fin da ragazzo le scrivevo da ubriaco. Forse l'alcolismo è la punta di un iceberg che nasconde, come spesso accade, la depressione. Ma si può parlare veramente di alcolismo o è solo voglia? No, si può parlare di quello. Tiziano dice spesso che lui scriveva quando era ubriaco, quando ha smesso di bere, ha smesso di scrivere. In realtà ha ricominciato a scrivere, scrive benissimo da lucido, però ha avuto un problema serio con l'alcolismo. Ancora oggi è una persona che lotta con i suoi demoni, con tutte le dipendenze. Guardingo. Ma quindi è uno di quelli che non beve più niente o si barcamena tra la gloria e l'abisso? Lui come dipendenza ha avuto l'alcol, la psicoanalisi e i farmaci per evitare lo psicanalista. Quindi certo, se barcamena su questi, risalta da uno all'altro. Forse è la meno grave l'alcol, qualcuno direbbe. Però la depressione è poi insomma il fattore scatenante. Soffro di depressione da sempre. Poi sono un alcolista che non beve, però uno rimane alcolista per tutta la vita. È stato difficile vivere per me. Ma Roberto, quanto il suo disagio di vivere è legato, come dire, alla sua capacità di destreggiarsi in mezzo ai mostri, ai freak, alla paura? Beh, Tiziano ha sempre detto che lui non si identificava né con Dylan né con Groucho, ma con i mostri. Il suo motto tipico è "i mostri siamo noi". Poi, da un'altra parte, i mostri siete voi, perché Tiziano ha paura di tutti, ha paura dei tizi, ha paura dei teppisti che girano in strada. Quindi ha avuto tutta una serie di idiosincrasie. Fermo restando che Tiziano non è un bizzarro come la leggenda vuol raccontare. Fermo restando che tra la realtà e la leggenda scegli sempre la leggenda. Però è anche una persona normale, è una persona dotata di un grandissimo senso dell'umorismo, di una fortissima ironia. Ma è uno che prende e va al ristorante con gli amici? Ci andava, adesso meno. Sicuramente, poi in un ristorante a Broni, nella saletta di là. Sì, ci sono storie. Me lo immagino così. Ci sono storie leggendarie di lui e Sergio Bonelli che mangiavano tonnellate di caviale in un ristorante da quelle parti. Ah, vedi. Beh, beati loro, che a me piace molto il caviale, ma bisogna centellinarlo. Piano americano e sfioro il tavolo con una mano. Pomeriggio strano è un desiderio che è fuggito lontano. Polvere, gran confusione, un grigio salone. In quale direzione io caccerò la polvere? Poi c'è il decennio 70-80 che è ricchissimo di lavoro, perché Sclavi collabora con la Rai per un programma della TV dei ragazzi che si chiama Gioco Città, e poi continua a pubblicare libri gialli nascondendosi sempre dietro allo pseudonimo di Francesco Argento. Poi scrive due romanzi, uno si chiama Tre e uno si chiama Mostri, che vedranno la luce solo una decina d'anni dopo. Il primo ha una storia particolare perché viene notato da Natalia Ginsburg, che lo vuole per un gruppo editoriale importante, però ci sarà un grande della letteratura italiana che si opporrà strenuamente. A 20 anni avevo mandato un mio romanzo, Tre, a vari editori. Lei mi telefonò a casa e mi disse che l'avrebbe preso per Einaudi, però doveva aspettare il parere degli altri lettori, in particolare il giudizio di Italo Calvino. E Calvino disse di no. La mia carriera è morta lì. Hai capito, Calvino? In realtà la sua carriera non è morta per nulla, anzi, basta scorrere il suo curriculum per rendersi conto di quanto lavoro ci sia in quel periodo e su quante cose diverse: critico cinematografico, scrittore per riviste di taglio umoristico, giornali per ragazzi, giallista, paroliere per canzoni d'amore, fumetti inventati per il Corriere dei Ragazzi o Corriere dei Piccoli, Alistair Michi, Sam Peck, Johnny Bassotto, il Cavallino Michele ispirato a Mike Buongiorno. Forse tutto questo stacanovismo, Roberto, per uno così fragile lo ha un po' debilitato e destabilizzato, può essere? Non lo so, quelli erano anni vivaci per Tiziano, ma sono gli anni tipici dell'inizio della carriera di uno scrittore, in cui scrivi un po' di tutto. Poi quando entra in Bonelli lui trova una misura, delle persone che gli danno molta fiducia e gli permettono poi di arrivare a esprimersi, lo fanno direttore editoriale, poi lo portano a crescere e a creare Dylan Dog. Quindi credo che facesse parte molto del primo periodo naturale della sua carriera, non penso che stesse malissimo in quel momento. No, ma non era quello che arrivava in ufficio alle 9:30 e andava via alle 6:30 preciso? Quando faceva il direttore di rivista, sì, anche andava perché in Bonelli erano pochissimi all'epoca, c'erano Sergio, Decio Canzio e Tiziano. E arriviamo al 1979, che è un anno cruciale per lui, perché il Corriere passa nelle mani di Rizzoli, a lui non piace l'ambiente, se ne va e si apre appunto la strada di cui parlavamo con Roberto Recchioni prima, cioè la strada con l'editore Bonelli, è la strada che lo porterà a Dylan Dog. There is a big change coming. I don't care who you are, it will change everyone. And with the big change coming, you better find out who and what you really are. Come on. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita di un grande talento, di Tiziano Sclavi. È un uomo particolare, lo stiamo conoscendo adesso, schivo, con delle ossessioni che forse sono un elemento fondamentale per il suo mondo di mostri, di emarginati, un mondo estremo tra orrori quotidiani, e un indagatore dell'incubo, appunto il suo Dylan Dog. E ne stiamo parlando con il curatore di Dylan Dog oggi, che è Roberto Recchioni. Tiziano Sclavi si dice che non abbia mai preso un aereo in vita sua, è vero? È vero. È vero. Il suo modo di essere, che sicuramente non è una scelta di marketing, è un modo di vivere, forse un'esigenza, dettata da un disagio, da una depressione che l'ha colpito fin da quando era piccolo. Vorrei essere sempre Dylan o chiunque altro. Parlo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Non è che la mia testa funzioni benissimo. Se no, non prenderei 6 psicofarmaci al giorno. Amo gli psicofarmaci, anche se mi hanno rovinato la vita. Avevo scritto un libro dedicato a loro. Ho buttato via anche quello. Che vuole? Se non è l'alcol, sono le pastiglie. Prendevo il Nardil come Foster Wallace, ma i miei tanti tentativi di suicidio sono stati tutti patetici. Mia moglie dice che ora non corteggio più la morte, come ho fatto per quasi tutta la mia vita, ma ho imparato a temerla. Questa è una bella frase, perché tutti, comunque, almeno molti artisti da giovani hanno un po' corteggiato la morte, lo abbiamo fatto tutti. Poi si invecchia e a un certo punto l'idea della morte non è più quella così romantica, cominci a averne paura. Quando cominci ad andare a qualche funerale di qualche amico, cominci a spaventarti. Ma torniamo agli anni Ottanta. Sclavi è in Bonelli, il suo approdo naturale, e lui lavora a ritmi incredibili su Zagor, su Mister No, su Ken Parker, su Martin Mister, e poi è chiamato per Zagor a sostituire il creatore del personaggio, Guido Nolitta, che in realtà è lo stesso Sergio Bonelli. Le collaborazioni sfociano in grandi successi. A metà degli anni Ottanta lui diventa direttore editoriale dell'edizione italiana di Pilot, che è una rivista francese, 15 numeri, perché poi anche l'editoria dei fumetti comincia a avere le prime avvisaglie della crisi. e poi scrive i suoi romanzi. In quel periodo sono Della morte e dell'amore e poi Nero sceneggia di continuo fumetti per Bonelli, ma finalmente il tempo di lavorare a un nuovo personaggio. È un'idea che gli passa per la testa da tempo. È un investigatore privato, è ragazzo bello, interessante, insomma affascinante, però ha un passato da alcolista e indaga su casi non esattamente canonici. Guardate attorno. I mostri che trovi nei libri sono reali e sono tra noi. Lupi mannari, vampiri, zombie sono dappertutto. Fine del 1986, ottobre, esce il primo numero di Dylan Dog, numero che io posseggo, ed è il mitico L'alba dei morti viventi, disegnato da Angelo Stano. Roberto, tu te lo ricordi quel primo numero? Sì, sì, sì, anche io, se io sono avevi diventato... 12 anni, no? 12 anni, sono diventato un lettore di Dylan con il 5, però l'ho ordinato per posta, come si faceva all'epoca. Sì. Quindi ho recuperato il numero 1 e i numeri successivi. Sono da quel momento diventato un lettore veramente attento di Tiziano Sclavi. È stato per me e per tutti gli autori che oggi fanno fumetti della mia generazione, è stato un faro assoluto, perché univa una visione da fumetto d'autore con l'idea di fumetto popolare, alto e basso insieme. Non veniva limitato da nulla, era uno scrittore incredibile. Io peraltro prima ti ho detto una cosa, pensavo di essere originalissimo, invece mi hai detto che è una cosa che ti hanno già detto in migliaia, cioè l'unico fumetto che io ho collezionato nella mia vita è Dylan Dog e sono arrivato al numero 100. Bisogna dire che il numero 101 era bellissimo. Il 101 era bellissimo, un sacco di lettori mi fanno no, io ho smesso col 100, il 101 era un bellissimo album. Esatto. Bisogna allora a tutti, me compreso, almeno andiamo al 101, poi quando ci rincontriamo parliamo del 102. Comunque, il debutto di Dylan Dog, come spesso accade per le grandi avventure, è un mezzo disastro. La notizia a Sclavi viene tenuta nascosta, anche perché per sua fortuna, nostra fortuna e fortuna sua e di Dylan Dog, nel giro di poche settimane il fenomeno esplode e arrivano le altre copie, la 2, la 3, la 4, la 5 e Dylan Dog parte, è un crescendo, perché è interessante lui, è un ragazzo, un giovane londinese. Quanti anni può avere Dylan Dog? 35. 33-35 massimo. 35, esatto, che indaga su mostri affini, su mostri e cose di paranormale, con una mente aperta ma anche con uno scetticismo di fondo, cioè un perfetto equilibrio tra il trascendente e il pragmatico. Arriva a vendere 500.000 copie mensili e il personaggio che funziona. Poi lui sceglie, credo consapevolmente, un Rupert Everett come punto di riferimento del personaggio, cioè Dylan Dog assomiglia. Sì, sì, sì, spedisce in un cinema scuro Claudio Villa a disegnare al buio, perché all'epoca non c'era internet per trovare le foto. Claudio Villa, ovviamente. Claudio Villa è il disegnatore, il copertinista, sì, di Dylan Dog. Lo spedisce in sala e a ridisegnare Rupert Everett guardandolo così nel buio. Perché non a caso poi sarà Rupert Everett anche a interpretare Della morte e dell'amore, che era il prodromo di Dylan Dog. Con Anna Falchi. Con Anna Falchi, le tette di Anna Falchi di quel film se le ricordano tutti. Eh sì, ma infatti io non volevo dire che me lo ricordavo per quello, però in effetti adesso il sorriso adesso che mi ci fai pensare è vero. Un'altra cosa interessante di Dylan Dog è che c'è sempre una umanità particolare, cioè in ogni numero comunque c'è un personaggio che in qualche modo cattura, interessa, affascina, un senso di incompiuto che ti dà voglia di capirlo meglio, il personaggio coprotagonista della puntata. Mi sono sempre identificato nei mostri, nei Freaks, e ho sempre pianto per alcuni dei miei film mitici. Freaks di Todd Browning, appunto, di Elephant Man, queste robe qui, ecco. La mosca di Cronenberg, cioè la storia della mia vita. Senz'altro è anche una maniera di stare dalla parte della minoranza, perché io ho sempre tenuto per la squadra che perde, per il più debole, insomma. Siamo al successo, ed è un successo che, come spesso accade, rilancia anche i lavori letterari fatti prima, come il romanzo 3, quello che non era piaciuto a Calvino, esce nell'88, arriva un premio nel 90 a Lucca Comics e gli viene assegnato lo Yellow Kid, che è una specie di premio Oscar del fumetto mondiale. Poi esce il romanzo Della Morte, Dell'Amore, e il protagonista si chiama Francesco Della Morte, è un custode di cimitero, però è una specie di Dylan Dog, anche se ha qualche differenza sostanziale. Il romanzo, lo dicevamo prima, diventerà poi un film. Insomma, è un momento di grandi risultati. Per esempio, il numero 69, Caccia alle Streghe, supera in vendite la corazzata della Bonelli, che è lo storico Tex, però è un successo che Tiziano comincia a pagare a caro prezzo, perché il ritmo che il successo di Dylan Dog gli impone è un po' troppo per lui. Sentiamo ancora un brano del film documentario di Giancarlo Soldi. Sono arrivato a scrivere 15 storie contemporaneamente per 15 disegnatori diversi. Lavoravo notte e giorno. There she stands, this lovely creature. There she stands, there she stands, with her hair full of ribbons and green gloves on her head. So I asked this lovely creature, yes I asked, yes I asked, would she walk with me a while through this night so vague? Lovely creature, yes she said, yes she said, yes I'll walk with you a while. It was a joyful man she led. This lovely creature, over mountains, over ranges, by great pyramids and sphinxes, we met drifters and strangers. Forse non è proprio una crisi creativa, però indubbiamente è una consunzione mentale che diventa evidente intorno al famoso numero 100, che peraltro è un numero simbolico, si chiama La storia di Dylan Dog, e lui mette fine, sclavi, a uno dei cicli narrativi che gli appassionati conoscono bene, quello di Xabaras. Forse non è un caso, forse lui vuole segnare la fine di un periodo. Insomma, da quel momento in poi le sue sceneggiature saranno sempre meno frequenti, e anche quando a volte tornerà con maggiore ritmo, saranno storie diverse, magari meno horror, più surreali, più grottesche, con qualche incursione verso il mondo della fantascienza. Verso lo scoccare del 2000, Tiziano Sclavi abbandona, dopo 25 anni, le sedute dallo psicanalista, quindi un uomo che lui ha arricchito, perché 25 anni, un cliente perfetto. Pubblica 2 libri, nel 2000 lascia definitivamente il ruolo di sceneggiatore di Dylan Dog, rimane solo il supervisore editoriale. Gli appassionati dovranno aspettare degli anni prima di poter leggere nuove storie di Dylan Dog firmate da lui. E nel 2005 annuncia di avere terminato una sceneggiatura, alla fine saranno 4 pubblicate nel 2006 e nel 2007, ed è un vero e proprio evento nel mondo dei fumetti, i media lo rilanciano, lo rimarcano, e invece nel 2006, senza nessun annuncio, arriva un nuovo romanzo, Il Tornado di Valle Scuro Passo, esce per Mondadori, lui lo definisce un thriller ufologico. Del resto Sclavi ha sempre detto di non credere all'esistenza dei mostri, ma di sperare nell'esistenza degli extraterrestri, e poi da quel momento si ritira dalla scena, dalla scrittura, e a chi gli chiede perché lui risponde così: la scrittura mi ha impedito di vivere, perciò non scrivo più. Tutti la considerano una debacle e la cosa mi intristisce, come se uno è ancora vivo solo se scrive. Cosa ne è oggi di Tiziano? Cioè, è un uomo che ha progetti, parla di futuro, si programma? È un uomo che ama molto sua moglie e i suoi cani, vive più serenamente di quello che si crede e sta tornando a scrivere, quindi probabilmente c'è una luce in fondo al tunnel. Ma secondo te lui è anche così restio a scrivere per non confrontarsi con le grandi cose che ha fatto? Cioè, c'è la paura di doversi ripetere a quei livelli? Beh, lui dice sempre che preferisce non scrivere e lasciare a tutti il dubbio che sia finito, piuttosto che scrivere e toglierlo, però... Invece, beh, quello è un modo per mascherare. Però, insomma, c'è nell'aria un ritorno, e si dice che riguardi proprio uno dei suoi demoni più, che ahimè sono stati più presenti nella sua vita, cioè l'alcolismo. È così? Sì. Sta scrivendo una storia, ha scritto una storia che è già stata disegnata, che uscirà nel numero 362 di Dylan Dog, Dopo un lungo silenzio, che è un titolo metatestuale perché si riferisce anche al silenzio di 9 anni di Tiziano. È una storia sull'alcolismo in cui Dylan si confronta di nuovo con il demone dell'alcolismo, che è lo stesso del Tiz. Certo, senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, ma lui ovviamente è consapevole di essere mitico, famoso, eccetera, cioè se uno lo incontra e gli chiede l'autografo, facciamoci la foto, cosa fa? Scappa, è imbarazzato? No, Tiziano è molto disponibile con le persone, è anche molto contento quando gli chiede un autografo se lo incontri, il problema è che non lo incontri. Ma se succedesse? Quando lo portiamo in giro, ogni tanto, quando riusciamo a trascinarlo via, io e Mauro Marcheselli, suo amico di una vita, lui è contento quando viene riconosciuto e quando poi inevitabilmente arriva la gente. Ma Tiziano comunque è una persona a cui piace piacere. E allora salutacelo tanto. Insomma, i voli non sono sempre facili e quasi mai lineari. Ci sono interruzioni, cadute verticali, ci sono schianti evitati per un sogno, ci sono incubi che vengono capitalizzati e quindi che in qualche modo ti aiutano a creare. Dalle grandi difficoltà nascono poi le grandi imprese che fanno gli uomini, e Tiziano Sclavi è l'esempio di tutto questo. Grazie ancora a Roberto Recchioni, che ci ha parlato, ci ha aiutato a districarci in questo labirinto. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, ciao, a lunedì. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. Il falco e il gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.